Dopo un anno di illusioni e di follia, scese il freddo e la foschia, sono solo e colpa mia. Camminando per le strade vidi che quella chiromante mi fece segnale di venire a lei e mi disse: sai, quando tu uscirai, presto troverai la tua metà. Non credetti a lei, quindi me ne andai, divertito alzai gli occhi e poi vidi te, la cosa più bella che c'è, cercai quanti volti che non puoi più distinguere tra noi. Poi di nuovo in quella strada vidi lei, buio nella notte, mi fece segnale di venire a lei e mi disse: sai, segui il cielo e vai, presto troverai la tua metà, tra difficoltà, quindi me ne andai, infelice alzai gli occhi e poi